Missione compiuta. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 19, versetto 30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. È compiuto. Una frase in cui è racchiuso tutto ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù. Compiuto, ovvero completo, perfetto. Non c'è niente da aggiungere. È una dichiarazione trionfale del fatto che la missione di Gesù è stata completata. L'uomo da sempre concepisce religioni che si pongono l'obiettivo di migliorarlo. L'uomo è convinto di dover fare qualcosa nella propria vita per meritare una vita migliore in seguito, un premio. L'uomo è convinto di dover offrire a Dio qualcosa come se Dio avesse bisogno di ricevere qualcosa dall'uomo, come se a Dio mancasse qualcosa. Ma la Bibbia afferma che tutti i nostri sforzi sono inutili. Non ce la faremo mai. Guardati, da solo non sei neanche in grado di percepire l'esistenza di Dio, nonostante si tratti di un fatto evidente. Come potresti avere una relazione con Lui? Certo, riuscirai anche ad essere buono se ti sforzi, ma rimarrai comunque lontano da Dio. Con tutti i tuoi sforzi non riuscirai mai a meritare niente davanti ad un Dio perfetto. Come potresti anche pensare di avvicinarti a Lui in base ai tuoi meriti? Allora mi dirai: non ho nessuna possibilità, non c'è speranza. No, non è così. Tu non sarai mai perfetto e non potrai mai soddisfare i requisiti di giustizia di Dio. Ma Gesù ha compiuto un'opera perfetta proprio per ovviare a questo inconveniente. Proprio quando riconosci la tua impotenza e inadeguatezza davanti a Dio e riconosci che meriteresti la morte perché sei un peccatore come tutti gli altri, Dio ti apre le sue braccia dicendoti che Lui ha donato la vita di suo figlio per te affinché tu non muoia ma viva. Essendo senza peccato, Gesù ha potuto offrire se stesso al tuo posto. Giustizia è stata fatta, qualcuno ha pagato. E tu? Cosa devi fare in cambio? Devi solo accettare per fede questa grazia che ti è stata offerta e lasciare che Lui ti trasformi affinché tu possa cominciare una vita nuova in ubbidienza alla sua volontà. Sì, Egli farà anche questo. Ringrazio il Signore perché ciò che io non potevo fare lo ha fatto Gesù per me. Tutto è completo, perfetto. Missione compiuta.